Bene, allora un caloroso benvenuto a tutte le signore e signori questa sera, che sono numerosi e, come si commentava pochi giorni fa con Paolo Mazzucato della RAI di Bolzano, il professor Dobrilla è sempre una garanzia. Quando presenta un libro o tiene una conferenza, il pubblico accorre numeroso e interessato, perché i temi che tratta sono, da un punto di vista scientifico, molto alti, complessi, ma nello stesso tempo espressi e illustrati in maniera semplice, e soprattutto toccano tutti noi. Insomma, sono temi relativi e riguardanti la nostra salute, ma soprattutto l'approccio corretto a quelli che possono essere gli strumenti per curarci e per avere un confronto, diciamo, preciso con quelle che sono le indicazioni che ci vengono date a seconda dei casi. Questa sera però il libro che viene presentato è praticamente un processo ai medici e alla medicina, quindi entra in merito proprio nell'ambito della propria professione e in un confronto con i colleghi. Sarà molto interessante scoprire che cosa contiene questo nuovo libro, e soprattutto questa sera sono qui con noi anche le responsabili della casa editrice CIV, che ha pubblicato questo nuovo volume, e possiamo anche all'inizio mandare in onda un trailer che così illustra e commenta questa nuova produzione nella persona del giornalista Gerardo D'Amico della Rai News. Non aggiungo altro, vi ricordo, come faccio di solito, che giovedì avremo un altro incontro, sarà la volta però di un romanzo ambientato sul territorio, l'autore è Ettore Frangipane, che mi sembra di aver visto qui in sala questa sera, e quindi il prossimo appuntamento è appunto fra pochi giorni, giovedì, sempre alle ore 18. Ma lascio subito partire la serata, che è molto intensa, e ringrazio ancora il nostro ospite e il professor Giorgio Dobrilla per essere qui con noi di nuovo con un altro libro interessante. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti. Ringrazio la Valeria Trevisan e i collaboratori per questa ospitalità sempre splendida, e vi racconterò poi dopo in un attimo la motivazione di questo libro, ma preferisco prima di cominciare farvi sentire questo messaggio, questo video messaggio di Gerardo D'Amico, che è vice direttore di Rai News 24 ed è conduttore e ideatore del programma Basta la Salute, che va in onda un paio di volte alla settimana, due volte al giorno, quindi uno del ramo, diciamo così. È stato così gentile, mi ha mandato questo video messaggio e dico pochi minuti e ve lo faccio sentire. Vai Fabio. Caro Giorgio, grazie per questo invito, mi fa molto piacere essere con te, con i tuoi ospiti, seppur in questo modo virtuale, ma ci tengo molto ad essere alla presentazione, spero, di questo libro, visto che per fortuna nostra che leggiamo, tu ne scrivi in abbondanza e anche in contemporanea. Sono libri importanti, tutti i tuoi libri, perché arrivano da un'esperienza molto lunga, da grandi successi professionali e anche dalle traversie che normalmente costellano la vita di ognuno di noi e quindi anche di uno scienziato. Noi stiamo vivendo un periodo molto particolare, perché abbiamo da un lato la possibilità di accedere a delle innovazioni tecnologiche applicate anche alla medicina, quindi alla nostra salute, inimmaginabili fino a qualche decennio fa. Erano milioni di persone che morivano e che oggi normalmente, banalmente, no? Diciamo, sbagliando poi, riferendoci a operazioni, interventi, farmaci che sono diventati rutinari. Tutto questo ci sembra normale e ci siamo scordati il lungo percorso, i tanti fallimenti per arrivare a tutto ciò. Questo è uno dei capi di imputazione, secondo me, che in questo processo alla medicina e ai medici dovrebbe essere preso in considerazione, ma non per colpevolizzare nessuno, perché tutti dobbiamo rimanere con i piedi per terra. I medici, che non devono sentirsi infallibili e non devono appoggiare tutta la loro conoscenza, la loro sicurezza professionale su un risultato di laboratorio, su una nuova tecnologia, su un nuovo nuovo farmaco, sono indispensabili, per fortuna ci sono, però l'uso delle mani, il guardarsi in faccia, fare quella visita del vecchio medico di campagna ha tuttora, a mio modo di vedere, una enorme importanza per la diagnosi ma anche per il risultato terapeutico. A proposito dei tempi che stiamo vivendo dal mio punto di vista, ti dicevo, molto particolari, per quel che riguarda i malati, i pazienti, noi abbiamo una biforcazione: chi si affida completamente al medico e però pretende dal medico la guarigione, pretende la cura, è sicuro che esista il nuovo farmaco, la nuova metodica chirurgica o qualcosa che gli restituirà sicuramente la salute. E poi c'è una fetta, per fortuna ancora minoritaria, che invece sta galoppando, ma sul dorso di un somaro, verso questo nuovo medioevo che sta prendendo tutti i paesi occidentali, purtroppo anche l'Italia. La tragedia del crollo delle vaccinazioni nel nostro paese, come in altri paesi ricchi, avere a disposizione un farmaco efficace e sicuro e non utilizzarlo, esponendosi quindi a delle malattie anche mortali. In Italia dall'inizio dell'anno abbiamo avuto 4 morti, 3 bambini ed un adulto per il morbillo, una malattia che avrebbe dovuto essere consegnata ai libri di storia della medicina, visto che c'è il vaccino per contrastarla. E poi vogliamo parlare del rifiuto della chemioterapia. In Italia abbiamo avuto almeno 3 donne che sono morte perché seguivano la nuova medicina germanica, quella di Hammer. Una ragazza di appena 18 anni si poteva salvare, dicono i medici che l'avevano in cura perché aveva una leucemia completamente curabile, ed invece è andata dietro a delle sciocchezze criminali che poi ovviamente l'hanno portata alla morte perché ha rifiutato qualunque farmaco. Oppure abbiamo passato i casi di Stalin, abbiamo passato e tuttora c'è qualche giudice che ancora impone a qualche ASL del nostro paese di somministrare la cosiddetta terapia di Bell. Il siero Bonifacio ancora è in circolazione, chi va a Cuba per comprarsi il farmaco, chiamiamolo così, a base di veleno dello scorpione blu. E poi la più grande delle truffe, la omeopatia. 3 milioni di italiani, almeno 3 milioni di italiani, si curano ogni anno con acqua e zucchero. 330 milioni è il fatturato annuo delle industrie che vendono questi preparati. E poi ci sono farmacisti e ci sono i medici soprattutto, che pur sapendo, perché devono saperlo se hanno preso una laurea in medicina, devono saperlo come è fatto, come è preparato, che cosa ci sia realmente dentro quella pallina bianca che si mette sotto la lingua o quella fialetta, è acqua, zucchero e un po' di alcol. Venduto, hanno fatto un calcolo, 24.000 euro al chilo costa quello zucchero con cui è fatto. Insomma, tutto questo rende ancora più necessario leggere libri come i tuoi, che fanno da cartina di tornasole per evitare di perdere completamente la trebisonda in questi tempi che stiamo vivendo. Ti saluto caramente, buon lavoro a tutti. Non ho concordato assolutamente, non sapevo neanche che sarebbe stato lui il prefattore del libro, quindi è nata una sintonia fatta di stima. È uno che si occupa di cose sgradevoli, che riceve anche minacce per l'attività che fa e via dicendo. Quindi mi sembrava giusto farvelo conoscere in maniera indiretta. Un secondo solo per dirvi perché è nato questo libro. Io in molte lezioni che faccio, conferenze eccetera, uso spesso degli aforismi e delle citazioni, non per nobilitare la presentazione, ma perché questi aforismi vengono spesso, sia piacevoli che spiacevoli, vengono spesso da persone che hanno una testa e che ci impongono di sentire il loro pensiero, e alcuni di questi mi entrano nella carne. e vedo che sollevano interesse, come l'ultima volta è successo quando ho presentato qui col placebo, hanno voglia di capire. Allora mi sono detto, ma in fin di conti in ogni presentazione, in ogni lezione si raggiungono 50, 100 persone, 30 persone, allora perché non riunire gli aforismi più importanti in un volume e commentarli di conseguenza in modo tale da poter allargare il messaggio a un pubblico più ampio? Questa è stata la partenza. Provocazioni preliminari, vecchio proverbio tibetano, basta la salute. Questa ci dà una gerarchia dei valori essenziali, perché quando stiamo male, qualsiasi male, tanto più se il male è veramente un male grave, capiamo che tante cose a cui abbiamo dato importanza ne ha veramente poca, perché basta la salute e ce lo ricordiamo in quel momento. Il problema è che ce lo dimentichiamo altrettanto spesso e quando stiamo di nuovo bene diamo di nuovo importanza a delle cose fasulle e non a delle cose serie. Orson Welles. Come vedrete, chi vorrà sfogliare anche il libro, i pensatori che hanno dato questi messaggi sono da attori cinematografici a registi, a drammaturghi, a matematici, a gente, a scienziati, astronomi, quindi c'è una serie, non c'è una selezione di saggezza, c'è un contributo di saggezza di varia indole. Questo Orson Welles diceva, famoso, no? Per il terzo uomo, Anton Karas, eccetera, se lo ricordiamo più per quello che per altro, sfuggirvi alla malattia è un sogno di tutti e si spera che con la malattia e con la vecchiaia acquistiamo anche saggezza, in realtà ci sono più acciacchi. Ma lo sconforto più atroce, questo è un aforisma nell'aforisma, è quella che dice Albert Camus quando dice che il segno della vecchiaia, della malattia e della vecchiaia è quando nessuno ti ascolta più. Questo è un segno di tristezza infinito. Prima eri magari l'oracolo di una cena, poi nessuno ti bada più. William Osler è un medico franco-canadese, noto in medicina per i colleghi, alcuni colleghi e amici che sono qui presenti stasera, particolarmente esperto di malattie reumatiche, noduli di Osler, eccetera, che ha detto questa, sancito questa verità che a suo tempo andava bene. Cioè la scienza è un'arte di incertezza, è un'arte di probabilità, giocare a dadi sostanzialmente. E questo lo è stato per molti secoli la medicina, per molti secoli fatta da varie cose, in quel momento in cui questa medicina si giocava a dadi non aveva nulla di diverso dalla medicina alternativa di oggi, anzi probabilmente era meno pericolosa di quella. C'è stata poi la rivoluzione ancora incompiuta di quella che ormai a livello anche popolare è conosciuta come EVM, viene tradotta con evidence-based medicine, con medicina basata sull'evidenza, ma la traduzione corretta sarebbe medicina basata sulle prove. E su che cosa non si dovrebbe basare la medicina se non sulle prove? Sembra ovvio. Questa banalità, questa presunzione, questo dubbio di Osler viene enfatizzato da questa tabella che vi faccio vedere, costruita con la collaborazione della professoressa Coruzzi e anche con dati tratti da prontuari nazionali e medici. I principi attivi singoli sono 600, le associazioni di principi attivi sono 1000, i preparati in commercio sono 13.000, già questo ci fa stupire. I preparati che contano veramente sono 350. L'efficacia non provata, quindi senza trial clinici controllati alla base, quelli di fascia C sono più di 6.000, gli omeopatici sono più di 120.000 e i parafarmaci sono 400.000, quelli che contano sono 350. Ci faremo una domanda sul perché abbiamo questa offerta enorme di cose che hanno una rilevanza veramente modesta. Questa la saltiamo. Sempre Osler dice una verità importante, che è quella degli effetti collaterali. Viene istintivo il paziente di volere il massimo dell'efficacia di un farmaco, il costo minimo, soprattutto se ce lo dà lo Stato, ed è attratto soprattutto e non vorrebbe avere effetti collaterali. Ma è un paradosso. Nessun farmaco è privo di effetti collaterali. Il problema è, come vedrete nella diapositiva che segue, che gli effetti collaterali devono essere minimi, rispetto agli effetti terapeutici. Allora ha un senso accettarli, perché pago il dazio dell'effetto collaterale, quale che sia, e però ho il vantaggio, un vantaggio clinico evidente. Quando le cose sono metà e metà, o quando addirittura gli effetti collaterali superano l'effetto terapeutico, è uno sconcio che ci sia in commercio un farmaco di questo genere. E la gente deve sapere però che il farmaco non può essere privo di questi. Fra l'altro, ci sono degli effetti collaterali. Collaterali non vuol dire negativo, vuol dire alatere dell'effetto principale. Ci sono degli effetti collaterali benemeriti. L'aspirina viene usata, come scoperto, l'effetto collaterale dell'azione antiaggregante dell'aspirina ha superato di gran lunga l'effetto terapeutico, che era nata come diaforetico, come antielomatico, come antifebrile. Il Viagra anche. Il Viagra per la insufficienza erettile è stata scoperta come effetto collaterale di un farmaco usato per motivi cardiovascolari, e si vedeva che sull'apparato cardiovascolare non faceva niente, ma faceva qualche effetto abbastanza piacevole. Stesse cose per l'antigravizia, perché lo stesso, alcuni farmaci per la prostata si sono dimostrati attivi su una peluria che però, smesso il trattamento, cessa anche l'effetto benefico, altrimenti stasera vi parlerei col ciuffo. Credere nella medicina, personaggio di rilievo, Marcel Proust, autore della ricerca, mito della letteratura. Credere nella medicina sarebbe suprema follia se non crederci non ne costituisse una più grande. Ed è un apparente paradosso, ma una grande verità. Quindi prudenza sì, ma alla romana, in onore di una persona che sta qui, che è venuta da Roma, quando ce vo, ce vo. Il problema è che questo atteggiamento cauto, ma quando ce vo, deve richiedere come contropartita non soltanto una maggiore longevità, a cui tutti, se siamo bene, se siamo abbastanza felici, se abbiamo 2 lire nelle tasche, aspireremmo di avere, ma deve essere una migliore qualità di vita. Guardate questo grafico molto banale, che va dal 1900... al 2010. Rossi sono le femmine e blu sono i maschi. È inutile commentare quanto vivevamo nel 900, l'età media era questa, e quanto siamo adesso nel 2010, e siamo ulteriormente migliorati. L'importante quindi non è tanto o solo aggiungere anni alla vita, ma dare qualità alla vita che viviamo. Se si buttassero, questo è un neurologo irlandese molto arguto, ha scritto delle cose anche extramediche molto divertenti, che dice: se si buttassero a mare tutte le medicine sarebbe meglio per gli uomini, perché era un periodo ancora in cui le medicine erano più negative che altro, sarebbe meglio per gli uomini, ma peggio per i pesci. Uno ci ha fatto il controcanto e dice: sì, ma se buttiamo a mare gli omeopatici è meglio per gli uomini, ai pesci non succede niente, perché diluiremo soltanto la salinità con un po' di acqua contenuta nel flaconcino. Il medico Voltaire, sarcastico, settario, però guardate l'anno in cui viveva e in cui è morto, 1694-1778, in quel periodo diceva questo: il medico, un uomo che mette farmaci che conosce poco in un corpo che non conosce per niente. E aveva perfettamente ragione, perché la terapia di allora era fatta semplicemente empirica, di osservazione. Se uno era intelligente faceva un'osservazione intelligente, se uno era cretino faceva un'osservazione a cretino, ma non si studiava né la fisiopatologia, né la base fisiopatologica della terapia, e non si studiava il meccanismo di azione. Questa assenza di fisioterapia e di meccanismo di azione toglie ogni validità alla terapia. Quindi era vero se si riferiva ai suoi. In passato non c'era questo, non c'era questo. L'informazione di medici in media è scarsa anche oggi, e ricordiamoci che una buona parte di medici è fortemente influenzata dall'informazione degli informatori scientifici, che si chiamavano una volta rappresentanti di medicinali, i quali vengono formati non dal direttore medico ma dal direttore di marketing. E quindi se voi andate dal sommelier e dite: ma le sue bistecche sono buone, lui vi dirà di sì. 20.000 medici per 6-8 visite al giorno di medico riceve 6-8 visite al giorno, per un totale di 120-160.000 visite al giorno per promozione e non per informare. Questi sono dati che vengono dall'Istituto Mario Negri di Milano. Coop Everett. Ho messo Jacques de la Palisse perché è la palissiano quello che dice questo aforisma, e dice: i farmaci non agiscono nei pazienti che non li assumono. Sembra una battuta, sembra un divertimento, eppure vi assicuro che la quantità di gente, e l'assunzione fedele nei tempi, nelle dosi, nei modi di farmaci, si chiama, un termine che abbiamo già ricordato più volte qui a Trevi, si chiama compliance. Ma uno pensa che sì, è meglio essere regolari, è un po' meglio farlo. Non è meglio farlo, perché la compliance può incidere pesantissimamente sull'esito della terapia. Guardate qui, l'efficacia di un farmaco e persino di un placebo si riduce dal 20 all'80% nei pazienti che non osservano dosi, tempi e durata consigliata. Quando facevo sostituzione di condotta per sopravvivere, appena laureato, avevo 6.000 mutuati. Quando andavo soprattutto nelle menti più popolari trovavo delle credenze piene: se si apriva un'anta cascava fuori di farmaci non utilizzati. E magari uno andava lì e criticava che il medico mi aveva una medicina che non mi serve di niente, ma ne ha preso il 30% o non l'ha presa affatto. Aspetti di buona medicina e di etica. Ci sono pazienti, questa è una delle migliori di quelle che chiedono nella carne, se uno pensa. Ci sono pazienti che noi non siamo in grado di aiutare, ma non ce n'è nessuno cui noi non possiamo arrecare danno. Questa è una roba come una sciabolata. Targa obbligatoria auspicabile nello studio dei medici e degli studenti di medicina. Non la troverete mai, e negli anni di insegnamento, di corso, di specialità, tanto meno la troverete. Esempi clamorosi di cosa noi, invece che far bene, facciamo male, ci sono sia in era assolutamente pre-EBM, sia in era post-EBM. E vi do due esempi clamorosi per far presto. Uno era la talidomide. Un pediatra tedesco si accorge nel 61 che da un po' di tempo vede dei bambini che nascono senza arti, che assomigliano alle foche, per cui nasce la malattia della focomelia. Da una lettera all'Lancet, che un'autorevole rivista ha fatto qualche castronata anche lei, e soprattutto sul vaccino e autismo, ma è una rivista solida. Nel dicembre del 61 non gli si crede, addirittura viene seguito, minacciato dalla casa che produce la talidomide perché smetta di... invece è vero. E la conseguenza è, passano anni, in questi anni un centinaia. Per fortuna l'Italia è stata rasentata soltanto, ma non del tutto esclusa, nascono roba così. E finché sono piccoli sono soltanto un calvario perché li ha messi al mondo. Quando sono più grandi e cominciano a pensare con la loro testa, vivono una vita drammatica per altri 50 e 60 anni. Il caso Vioxx invece è un caso in era già post-evidence-based medicine, il che significa... i controlli ci sono, ma non sono sufficienti o non sono sempre sufficienti. Il problema degli antinfiammatori che interessa a tutti coloro che hanno più di 40 anni, l'artrosi, l'artrite, il ginocchio, l'anca, eccetera, sono i cosiddetti FANS, però una delle pecche di questi FANS è che hanno una certa gastrolesività, sia in uno che abbia già una patologia gastrica o duodenale, l'ulcera, sia in uno che non abbia nulla. E se uno ha l'ulcera è una delle principali cause di emorragia da ulcera, di cui ne sentite parlare sempre meno perché sempre meno ulcere si fanno. Allora, modificando un po' la formula, adesso vi salto per le cose più specialistiche, si è sviluppata la classe degli anti-COX-2 che avrebbero, rispetto ai FANS che sono gli anti-COX-1, avrebbero il vantaggio di non essere gastrolesivi. E questo è vero, solo che purtroppo sono molto di più lesivi per il sistema cardiocircolatorio e cerebrale, per cui meno pericolo per l'apparato intestinale, più grandi pericoli, più grandi rischi per il cuore e per il cervello. Il grave è che quando queste cose vengono ad assumersi, questo può scappare anche lo studio clinico controllato, perché per dimostrare l'efficacia di un farmaco bastano centinaia di soggetti, per dimostrare la sicurezza ci vogliono migliaia, per cui soltanto la post-marketing surveillance ci potrà dire sul farmaco quanto è sicuro e in che misura è sicuro. Bene, quando si viene a sapere, la ditta intanto nicchia e poi passa l'informazione all'ufficio vendite, passa, dà l'informazione prima a se stessa e decide di tacere, e non passa l'informazione alla Food and Drug Administration, che invece poi è imposto immediatamente. Tanto è grave questo che vedete che in uno studio, intanto nel frattempo sono stati fatti 80 milioni di trattati, infarto miocardico in più di 100.000 soggetti, decessi in 26.000, ritardato ritiro di Vioxx nel 2004. Ma la cosa più immorale è che la DIPLA McCharbedon ha avvertito prima gli azionisti di quanto non sia l'avvertimento all'ente di tutela. Anche non fare un farmaco, anche non introdurre un agente è pericoloso. Sicuramente è pericoloso non vaccinare, in particolare per alcune malattie, ma è un numero piuttosto ampio. Vi nomino questi due libri perché sono in ordine di tempo, ce ne tonnellate, potevo far vedere anche prima, perché le documentazioni sono di almeno 50-60 anni, non lasciano, ma di più, non lasciano di più. Ma questi due sono ben puntuali e anche recenti. Uno è di Cera una volta, la casa editrice del mio libro di stasera, e uno è Mondadori, che ha pubblicato il Roberto di Burioni, che ha un fare aggressivo, un po' antipatico, non è simpatico neanche a me, però dice delle cose sagge, le dice con modo rude. Per esempio ha dato dei cretini a chi dice che i vaccini fanno male, e lui ha risposto: ma cretini non è un'offesa, è una diagnosi. E chi si oppone in maniera, non l'esperto che può avere riserve con il quale è giusto confrontarsi, ma chi non sa nulla, chi vende giornali, chi fa il letterato, chi fa il romanziere, può essere spesso il contrario, senza sapere neanche la base medica della vaccinazione, ma in più non è sollecitato da quello che si vede intorno. Quando ero ragazzo io, scene di gente con la paralisi infantile le vedevo ogni giorno. Io per tirarmi fuori queste foto ho dovuto faticare, perché nei nostri paesi la poliomielite non si vede più, il che non significa che è scomparsa, perché siccome non c'è l'obbligo della vaccinazione fino adesso e siccome ci sono certi paesi in cui non vaccinano per la poliomielite, il virus sopravvive. E guardate che il virus non ha frontiere, basta un viaggio per portare un virus da una parte all'altra. Quindi queste non le vediamo più. Altra provocazione è quella di Christian Barnard, che predicava bene ma ha razzolato male. Perché predicava bene? Perché aveva un concetto di bioetico condivisibile. Ci sono, e dice, il primo compito del medico è alleviare la sofferenza, non prolungare la vita. Se la cura non allevia la sofferenza, allunga solo la vita, dovrebbe essere interrotta. Qui interviene, come sapete, il grande Bailam, siamo ancora lì a fare, avrebbero già dovuto fare una norma, non la fanno, non si fa mai, eccetera, soprattutto per motivi di ordine religioso comprensibili, ma al di là di una impostazione scientifica. Bene, perché lui ha razzolato male? Perché lui, quando ha operato, ha fatto il primo trapianto su un polacco, Vashansky, lo ha fatto che stava uno scompenso, una dilatazione enorme di cuore, una cardiopatia dilatativa ricca di sofferenza, gli ha aggiunto la sofferenza dell'anestesia, gli ha spaccato il torace senza sapere cosa sarebbe ben successo, anche se in teoria sapeva cosa fare, e ha avuto, tanto è vero che il paziente è morto dopo 18 giorni. È morto dopo 18 giorni di sofferenza ulteriore, per cui il medico non solo non ha allungato la vita, ma gliel'ha resa più penosa. Naturalmente ogni medaglia al suo rovescio, la sua incoerenza ha fatto sì che disponiamo di un trapianto di cuore per cui centinaia di pazienti vivono la loro vita normale, la loro vita sessuale, figli, eccetera. Addirittura hanno fatto il film, se ricordate, con Clint Eastwood, che aveva ricevuto in dono il cuore da una sua partner. Questa è il mondo di Amicis al quadrato, al non so, coefficiente enorme. Ma il mondo da Amicis aveva una visione sbagliata della medicina, però dei casi ci sono. Albert Schweitzer, figlio di un pastore, molto religioso, grandissimo musicista, amante di Bach, ma amante della medicina vera, che non tutti possono avere. Tanti giocano a tennis, ma pochi sono Federer. Tanti sono altruisti, ma pochi sono Teresa di Calcutta, e via dicendo. Lui andò, lasciò l'Europa, lasciò l'agiatezza, si sposerà più tardi con una donna che ha condiviso con lui questo ideale di medicina umana, e dice che fa mettere su questo ospedale di Lambarene, che era questo quando lui è arrivato, questa targa: qui a qualsiasi ora tu venga troverai chiarimenti e aiuto e umana gentilezza. Ma mettiamola nel pronto soccorso, no? Dovremmo averla nel pronto soccorso, ma non sono solo colpevoli i medici che non fanno funzionare, spesso i medici sono i colpevoli minori del disservizio di pronto soccorso, perché il problema è politico e i politici li eleggiamo noi. Succede che fa un gran bel bene, viene considerato un dio bianco, c'è la guerra, viene fatto prigioniero dai francesi, si becca la tubercolosi anche sua moglie, tornano in Francia e finalmente tornano indietro. Conclusione di queste robe, fa concerti per tirare su soldi, eccetera, che nel 81 questa roba che era qua a Lambarene nel 13 diventa ricca di un reparto di medicina generale, medicina tropicale, chirurgia, ostetricia, ginecologia, pediatria, psichiatria, odontoiatria, laboratorio e radiologia. Non possiamo pensare che ogni medico sia Albert Schweitzer, questo è chiaro. Dico solo come punto di riferimento: se devo ispirarmi a qualcuno, mi ispiro più ad Albert Schweitzer che a Mengele, che faceva la Bajur con la tuta dei deportati. Una pecca che grava anche involontariamente, c'è anche spesso buona fede in questo, nel medico, di considerare, e in gran parte è vero anche questo, di considerare la malattia e non il malato che ha la malattia. Ma ogni malato è diverso. Se io do, per farvi un esempio paradossale, se io do 5 mg di qualsiasi farmaco a uno magro che pesa 70 kg e alto 1,70, e poi lo do la stessa dose a un bracciante che pesa 140 kg, evidentemente non è la stessa cosa. Qui tutti ci accorgeremmo che c'è questa differenza, ma anche quando le differenze non sono così abissali, la differenza c'è. Per cui anche questi due dicono che sono gemelli monovolari. Non siamo uguali neanche noi. Quindi un'avvertenza, una sensibilità maggiore nel medico a considerare la patologia che lui ha nell'ambito delle linee guida, di quello che si sa, ma di considerarlo anche nel suo aspetto e nel suo aspetto ambientale, perché ogni persona può divergere per età, per ceto, il ceto conta molto nella malattia, l'ambiente dove vive, la cultura, la comorbidità. La stessa malattia in uno che non ha il diabete non è la stessa malattia di uno che invece ha il diabete, e questa differenza comporta delle valutazioni diverse dal punto di vista clinico. Il nostro Bernard Shaw, sempre fantastico, sempre acuto anche contro se stesso, che dice: le bugie ottimistiche hanno un tal valore terapeutico che se un dottore non sa dirle in modo convincente ha sbagliato professione. Poi dice: ma come? Questo è un invito alla menzogna? No, non è un invito alla menzogna. Purché la bugia sia l'unica, come vedete indicato nelle cose dettagliate, sia l'unica forma possibile per aiutare quel paziente e non sia un inganno del paziente. Per cui prioritario è l'interesse del malato. Ma la bugia deve essere convincente, perché se il malato si accorge che la bugia è una bugia, non ha più presa, non fa più del bene. Liceità, quando fatto salvo che deve essere l'interesse, è fatto salvo che è convincente, che non ci sono altre cose, allora per dare un conforto al paziente è utile anche, è lecito anche dare del placebo o ricorrere a una medicina alternativa che ha un significato placentico, che è di natura placentica. Deve essere chiaro che non ci sono altre cose per migliorare la cosa. Didattica. La didattica, dice questo signore che riconoscerete, tutti lo conoscono perché è diventato il parafulmine, insomma ha fatto il politico, sociologo, eccetera, eccetera. È sine qua non del buon insegnante, parlami di una cosa e io la dimentico. Mostramela e io la ricordo, coinvolgimi e io la imparo. Se non siamo coinvolti in qualche cosa, una roba c'entra da un orecchio e va fuori da quell'altra parte. Quindi i metodi di insegnamento devono essere attraenti, e per essere attraenti e onesti devono essere aggiornati, e la trattatistica su cui che viene data ai pazienti deve essere una trattatistica realistica. Non deve succedere durante la lezione quello che succede in Parlamento. Questi sono onorevoli in azione che stanno brillantemente dormendo mentre magari si discute sul testamento biologico, sull'omofobia, su quello che volete. Tant'è vero che è venuta fuori una norma che i giornalisti non possono per legge più fotografare l'onorevole che dorme o che si mette le dita nel naso. Insegnare bene vuol dire che piace insegnare. Se uno non sa insegnare, c'è qualche amica mia cara in sala che ha fatto l'insegnante, sa che bisogna amare l'insegnamento. Frequentare le lezioni deve risultare per lo studente che le frequenta vantaggioso e non sostituibile dei tragatti, ma anche le aule devono essere disagiate. Ci sono università che hanno migliaia di pazienti, l'aula ne tiene 400. Provate ad andare a cesso in una di queste aule. Non ci sono gabinetti, sembra una stupidaggine, ma è una cosa che influisce moltissimo sulla frequenza. Si sta scomodi, si sta poco, si lotta per avere una sedia, e se ti scappa la pipì o la popò non sai dove andare. Non dovremmo trovarci in questa situazione. Muraglia cinese, qui è indicato con immagini, si distingue il senso femminile e dice che c'è sì il gabinetto, ma bisogna fare questo tragitto, e allora il soggetto dice me la tengo. L'insegnamento, altra cosa alla palissiana, non si completa con la laurea, essa è appena all'inizio. Vi ricordo prima di tutto questa parte qua: laureati anche con 110 lode possono non aver mai visitato un malato, mai fatto un'endovena, mai misurato una pressione, mai messo un sondino nasogastrico, e si laureano con 110 lode. Io mi sono laureato con 110 lode, ma facevo l'interno. Avevo scoperto che esisteva questa figura dell'interno, uno andava a chiedere la carità, dice posso frequentare il reparto. Allora tu andavi dentro, siccome li aiutavi, li scaricavi, erano tutti contenti di avere l'anzichenecco che lavorava, e così si impara. Ma il 90% e passa non ha fatto nessun tipo di queste cose. Laureati con 110 lode possono restare precari a zero lire per anni. E allora vi domando, qui per assolvere in un processo, non è un processo accusatorio, è un processo anche assolatorio, come possono avere entusiasmo a fare una buona medicina se ti sei laureato a 24 anni, non hai il posto, non hai nessuna previsione di posto e devi fare, volevi fare il cardiologo e devi fare il medico di turno di notte in una casa di cura per sopravvivere. Quindi queste situazioni qua incidono profondamente anche se uno ha fatto l'educazione medica continua, che fra l'altro non funziona bene come dovrebbe. Allusione, ironia, accuse. Questo è il più grande nemico della medicina e dei medici. Un austriaco, scrittore, filosofo, sociologo, Ivan Illich, e il suo libro più celebre è Nemesi Medica, l'espropriazione della salute. Lui ha toccato tasti importanti, ma è stato settario e, come tutti i settarismi, pecca di equilibrio. La critica è giusta, ma è eccessiva, è ingiustificata ed è ideologica. A favorire l'ostilità del filosofo viennese non sono gli errori, che sono inevitabili in qualsiasi categoria di persone. L'errore è umano, ma a favorire la malavistosa malasanità. Di malasanità noi siamo stati un esempio non unico, che c'è in tutto il mondo, ma piuttosto bersagliato. Vi ricordo solo per il clamore che ha avuto, senza parlarne, ne abbiamo parlato in altre occasioni, il Remida della Sanità a Roma 993. Vigoria sessuale solo promessa, con uno che poi gli ha sparato nei testicoli al chirurgo, nel 2007. Clinica Santa Rita di Milano nel 2008, bancarotta del San Raffaele, che è costata, come sapete, anche il suicidio del collaboratore principale di Don Berzè. Di queste ve le nomino per ricordarvele, ma di questa vi voglio dire una cosa, perché è del 2014, l'altro ieri, il caso Avastin Lucentis. Sono quasi sicuro che, a parte qualche collega in sala, nessuno ne ha mai sentito parlare. Perché la radio l'avrà detto, la televisione l'avrà detto, ma en passant mentre sulla farfallina della Belen si sono fatti dei talk show che non finiscono più. Allora, molto semplice, esiste un farmaco per prendere a breve, esiste un farmaco che si chiama Avastin, esiste un farmaco che si chiama Lucentis. La ditta che lo produce questo è la Roche, la ditta che produce quell'altro è il Novartis. Serve per guarire, per curare la maculopatia degenerativa, e che colpisce circa il 30% degli over 80, 30% degli over 70. I due farmaci sono assai simili, però questo ha ricevuto la licenza di essere usato non off label dentro, e nelle sue indicazioni c'è il trattamento. L'altro può essere usato ma solo off label, al di fuori delle indicazioni garantite e sopportate. Bene, la Ventis costa 80 euro l'iniezione e il Lucentis costa 95%. A fare una grande promozione per usare questo di 95, di 900 euro è stata proprio la casa concorrente, perché aveva una compartecipazione inutile nel Lucentis, quindi le conveniva più che si vendesse il farmaco degli altri piuttosto che il proprio, perché ci guadagnava molto di più. È stata multata alle aziende una multa di 180 milioni di euro, che fa 360 miliardi di lire, in vecchie lire, ma sicuramente meno di quanto hanno incassato con questo tipo di cose. Eccolo qua, 80-900, con divisione azionaria tra il cosiddetto cartello. Anche la cultura ha la sua costituzione autorizzata. Lo dice Martin Kess, il poeta scrittore tedesco, abbastanza vicino a noi. L'informazione scientifica non è sempre l'obiettivo primario di molti congressi, non mai, ma neanche sempre. Gli interessi sono ingenti e contagiosi, ma non parlo dell'interesse dei 20.000 lire, si tratta di interessi miliardari. La questione dei simposi satelliti. Allora, ve li faccio vedere. Cosa sono questi simposi satelliti, a cui ho partecipato molte volte anch'io? Sono farmaci organizzati, è concesso a questi simposi di aver sede nell'ambito di congressi organizzati da società scientifiche di alto lignaggio, e quelli sono che organizzano e fanno quello che devono fare. Questi qui, dentro nel contesto di questo, fanno il simposio satellite, che si becca l'autorità, l'autorevolezza, il prestigio del simposio scientifico, ma porta un messaggio puramente commerciale. Non è detto che nel simposio satellite non ci sia anche il farmaco buono. Io vi posso dire che ho fatto dei simposi satellite in cui presentavo ancora lo Zanta di un tempo e anche i PPI di adesso, quindi non facevo sicuramente promozione di farmaci, ma questa è un'eccezione, ci sono molte altre. Allora, la conclusione che piacerebbe molto a Ivan Illich, che ha uno sguardo, una faccia molto interessante, è che ci sono delle costituzioni evidenti come quella dei corpi, ma ci sono delle costituzioni non evidenti che sono quelle dei cervelli e che passano sotto traccia, perché nessuno in questa sala che non sia medico sapeva neanche che esistessero i simposi satelliti. Il mestiere più vecchio del mondo è bisex, anche se in un caso si vende il corpo e nell'altro caso si vende il cervello. In tutto il mondo, non in Italia. Poi questa è molto interessante, questo è un attore comico statunitense che mi sembra abbia recitato anche il nostro Benigni in un certo film, io non l'ho visto comunque, è Steven Wright. La prossima settimana dovrò fare una risonanza per scoprire se soffro oppure no di claustrofobia. No, beh, costa milioni, la macchina costa miliardi, costa milioni, ma lui dice, ma no, ad alte medicina sicuramente pleonastica, la claustrofobia, ma basta il test dell'ascensore, uno che la claustrofobia va in ascensore o si chiude la stanza e sviene, non deve fare una risonanza magnetica. No ad altri esami, ma questo è il messaggio serio, è questo, no ad altri esami quando la diagnosi è già acquisita e sono del tutto inutili. Per esempio, cosa che mi capita spesso di convincere, è di fare l'attacco per controllare i calcoli visti in ecografia. Allora, i calcoli della colecisti. Allora, i calcoli visti in ecografia non espongono assolutamente ad alcun rischio radiologico, perché sono a base di ultrasuoni. I calcoli visti con la CAT comportano un rischio radiologico pari a centinaia di radiografie del torace. Mi dite mai perché uno che ha una diagnosi di calcolosi policistica affermata deve farsi fare la TAC, e se magari insiste e il medico non ha voglia di perdere tempo, non è capace, gli fa la TAC. Quindi basta con la medicina pleonastica. Se si è scoperto che ho una metastasi epatica evidenziata con la risonanza, è inutile che faccia la TAC, è inutile che faccia una laparotomia, è inutile che faccia un'ecografia. Che costa molto a svantaggio della sanità pubblica. Arguto, efficace, come sempre, dice il nostro George Shaw, Bernard Shaw, mi piace la convalescenza, è molto bella questa, è la cosa per cui vale la pena di ammalarsi. È molto divertente, ma pensiamo che ci sono malattie che non guariscono e non avranno mai la convalescenza, e quindi fa ridere, ci fa riflettere, ma è del tutto incongrua questa affermazione, ma lui lo sapeva, era un intelligente, per le malattie inguaribili. Nel dubbio, dice, meglio non ammalarsi. Dice, vabbè, ma è facile dire, per esempio, vacciniamoci per le cose gravi. Non possiamo più, possiamo morbire di un virus strano che viene dall'Africa, l'Ebola, il Zika, e robe strane che non ci sono ancora, ma non possiamo più morire di morbillo, non possiamo più morire di rosolia. Soggettività dei disturbi. Questa vale per tutti. Quando l'ho scritta mi sono sentito colpevole anch'io, naturalmente profondamente colpevole anch'io. È che il piccolo problema nostro supera di gran lunga l'interesse per i problemi molto più importanti del genere umano. Difficile, naturalmente, l'empatia, il medico che sa ascoltare, il medico che è capace di dare del suo tempo al medico, si mette anche di gusto buono. Ci sono dei medici che sono dei fratelli maggiori, non c'è dubbio alcuno, ma anche per il più empatico di medici, e non bisogna che ce lo dimentichiamo mai, il dolore che sentiamo noi non è quello che sente il paziente. L'affermazione è di Lerisch, che è stato un bravo chirurgo, anche se ha fatto inventato una operazione che non si fa più e che doveva agevolare la circolazione degli arti inferiori, e invece rendeva impotente l'operato, ci si è accorti un po' dopo. È grave se il dolore poi non è un dolore fisico, ma è un dolore più che fisico. Per esempio, pensiamo a una coppia, a una madre che è rimasta vedova, che ha un figlio disabile che resterà senza nessuno quando lei muore. Come si fa a entrare nell'anima e nella sofferenza di quello? È impossibile, sapendo anche che le istituzioni non rispondono in maniera adeguata. Qui non c'è nessuna responsabilità dei medici, c'è una responsabilità del sistema sanitario, che dovrebbe avere più lire, ma se le spende malamente ne avremo sempre più, eccetera. Questa è per dare un pugno nello stomaco a me stesso. Ci dimentichiamo, perché abbiamo avuto a tennis, io e il dottor Rispoli qui che gioca ogni giorno a tennis, gli fa male il gomito, si lamenta, e anche lui in quel momento si dimentica che di fosse di questo genere ne abbiamo avuto a tonnellate. Recentemente hanno scoperto fosse dell'ISIS, proprio l'altro ieri mi ha dato notizia, mi sembra una fotografia di ieri. Ci dimentichiamo che questo bambino cerca di ottenere qualcosa raggranellando un possibile alimento in questo immondezzaio, e ci dimentichiamo che 26.000 bambini muoiono di fame al giorno. 26.000. Naturalmente non è possibile che noi soffriamo ogni giorno di tutte le sofferenze dell'umanità, ma l'importante è che ce lo ricordiamo per essere più modesti nelle nostre esigenze. Anche in questo caso il processo non va dato alla medicina, ma all'Homo sapiens, che dimostra in questi ultimi decenni di essere sempre meno sapiens. Sto per concludere. Alimenti e antica saggezza. Questa è bellissima. Un memento di Bilan Savarin che i medici non dovrebbero sottovalutare. Questo è il memento di Savarin, e che viveva alla corrispondenza della rivoluzione francese, e dice in maniera molto simpatica: il piacere della tavola è di tutte le età, di tutte le condizioni sociali e di tutti i giorni, può associarsi a tutti gli altri piaceri e resta l'ultimo a consolarci della loro perdita. Bellino, no? Bellino, molto umano. E se ce lo ricordiamo, dobbiamo criticare fortemente il medico che non sa che proibire. Allora, questa vignetta di un vecchio corriere medico che ho avuto l'arguzia di conservare tra mille scartoffie, vedete che il medico sta interrogando il paziente e ha in mente di dirgli niente mangiare, niente fumare, niente sesso, non bere caffè. Tutte queste proibizioni, invece che aiutare il paziente, fanno maturare il fumetto del paziente che dice, e io ti elimino te, io da te non prendo più. Le proibizioni moralistiche del medico sono ingiustificate e possono risultare controproducenti. Mi spiegate che senso ha rifiutare a uno che ha un cancro del polmone in fase terminale e impedirgli di fumare? Non basta dirlo, bisogna farlo. Io, mio padre, che è morto di cancro sicuramente da fumo, negli ultimi giorni in cui gli mancava pochi giorni di vita, gli portavo il pacchetto di sigarette. O il cirrotico che sta morendo da insufficienza epatica, eccetera, gli si impedisce di bere mezzo bicchiere di vino quando l'ha avuto per 60 anni, e quel mezzo bicchiere che gli viene proibito non gli allungherà la vita, gli peggiorerà soltanto la qualità. Interessante, perché la stessa cosa viene detta, scritta, dalla scuola salernitana, in cui c'era un'integrazione razziale favolosa, arabi, indiani, magrebini, tutto quello che volete, e questo Jonathan Sweet, che è un scrittore, poeta, polemista, pastore anglicano. Dicono a distanza di così tempo quasi la stessa cosa. Se il medico non hai, ti facciamo da medico questi tre: l'allegria, la quiete, la dieta moderata. E lui: i migliori medici del mondo sono il dottor dieta, il dottor quiete e il dottor allegria. Sembrano fatte nello stesso momento e in fin di conti sottolineano delle cose che sappiamo anche noi. Se siamo quieti, se non abbiamo problemi, se siamo allegri, stiamo meglio. Naturalmente questo ci fa ricordare quella definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che la salute non è la semplice assenza di malattia, perché se tu hai tutta una serie di grane, non hai soldi per mangiare, tuo figlio deve curarsi, non hai soldi per l'operazione, tu una vera salute non l'avrai mai. L'uomo dovrebbe mangiare per vivere e vivere per mangiare. L'avevo messa anche per scandalizzare ulteriormente il collega Lucchini, che forse c'è prima, non lo vede, ma che sta lottando da anni per impedire l'obesità infantile. Noi siamo una provincia piuttosto buona, siamo meglio di altri, ma non siamo ancora fermi e c'è un progressivo crescere dell'obesità. Se noi confrontiamo queste due immagini, ci viene la pelle d'oca. E il paradosso è crudele, ma anche in questo caso i medici sono i colpevoli. Voi sapete che in alcuni stati degli Stati Uniti, non in tutti, la presenza di un bambino così, in queste condizioni e a questa età, il genitore o la madre vengono arrestati per violenza sui minori. E ci sono degli ospedali che hanno come norma di non curare chi non ascolta indicazioni dietetiche che costano allo Stato. E come in Inghilterra, che il paziente con tumore del polmone, che ha fumato da 60 anni, si paga le spese a sue. Perché dice lo Stato: io pago miliardi di lire per informarti, mi costano miliardi che sottrago al giardino, sottrago all'asilo, e tu vuoi, e te lo paghi. Scientificità delle cure e la ricerca, e siamo alla fine. Una delle più grandi corbellerie è: ma se lo fa tanti servirà qualcosa. Ma questa è una frase di una imbecillità totale, e me ne assumo completamente la responsabilità. Allora tutti dovremmo essere curarci rivolgersi all'oroscopo per vedere cosa fare. Ma in effetti una serie di gente lo guardi ironizzando, magari fa l'ironia, eccetera. Non c'è giornale anche serio che rifiuta di avere uno spazio dedicato agli oroscopi. Non c'è telegiornale serio che non ha anche quello che ti dice la mattina se incontrerai l'amore della tua vita. Molti milioni fumano e sappiamo che questa non è una garanzia della salute del fumo, perché si è calcolato che in assenza di altri fattori di rischio solo il fumo, al di là delle 20 sigarette al giorno, comporta una riduzione di 15 anni di vita, e parlo di soggetti sani senza comorbidità. Solo il fumo riduce 15 anni. Naturalmente c'è sempre la solita, ma mi conosco un che ha fumato tutta la vita e se aveva 90 anni, vabbè, è un'eccezione. Uno può fare una corona di totocalcio e vincere una volta sola ha giocato e vincere, quante volte succede? Mai. chi si avventura oltre le colonne d'Ercole della ragione, anche in medicina, sottolineato in rosso, finisce col naufragare nell'inconsistenza. Insomma, non possiamo far funzionare il nostro cervello, i nostri 100 miliardi di cellule nervose, non possiamo farle funzionare un po' così e un po' no. E lui dice, un paese più semplice, voleva dire più sempliciotto, è una pacchia per chi ci casca in queste cose qua, per chi attraversa le colonne d'Ercole della Siero di Bonifacio, citato anche da Gerardo D'Amico, la multiterapia di Bella, stamina, innovacino, medicina alternativa, omeopatia, eccetera, eccetera, hanno superato largamente questo e continuano a essere presenti nelle diarie. L'altro ieri, uno mattina mi ha invitato, ve lo dico non per vanità, ma per dirvi a che punto si arriva, di andare a Roma per avere un dibattito con un omeopata. E io mi sono, avevo mal di schiena. E faccio 600 km per andare a contraddire uno quando tutta la letteratura scientifica del mondo ha già detto tutto. E mi dispiace, mi ha detto Garattini che sono la persona giusta, ma non vengo a Roma. Il sonno della ragione produce mostri, anche in medicina. Quindi sto cervello che abbiamo ce lo dobbiamo, a parte le ore di sonno, lo dobbiamo tenere aperto. Questa è la bellissima acqua tinta di Francesco Goya, medicine non provate, pomate dimagranti, oroscopi, buttacarte, numeri sicuri all'otto, ma se uno vi dice, vi dà i numeri vincenti all'otto, ve lo dice lui, non se li gioca da solo, sempre lì, eppure ci sono delle trasmissioni ricche e moltiplicate in varie reti. E questa infine, credo che sia l'ultima, la penultima, è di Gianfranco Domenichetti, che nessuno di voi conoscerà giustamente, perché ha fatto un altro lavoro, è un sociologo che si occupa molto di medicina, è un accademico di Lugano, è uno svizzero, e dice qualunque prestazione medica deve essere considerata inefficace finché non si dimostra il contrario. Ma è talmente logica sta roba che sembra impossibile che dobbiamo fare una diapositiva per affermare questo. Se no, io e Rispoli diremmo che abbiamo battuto in coppia Federer e Nadal, ma dovremmo portare una prova di questo incontro, se no nessuno ci crederebbe. Risultati apparenti senza controllo possono essere belli da vedere, ma quando vai a vedere dentro trovi le cose. E non basta neanche l'ipse dixit, perché un premio Nobel nel suo campo può essere può essere un cretino in un altro campo. Addirittura ci sono dei premi ignobili dati a scienziati di larga fama che hanno detto delle sciocchezze terribili. Il paradosso è che uno che ha preso il premio Ig Nobel una volta, poi ha preso un premio Nobel vero perché ha inventato una certa cosa molto utile per l'umanità. Carl Sagan, astronomo, astrofisico, affermazioni straordinarie. Se uno dice una cosa straordinaria, ma sai che mi sembra che quando la neve cade a nodi un po' più grossi, la gente sta meglio con l'artrite reumatoide. Sta roba, una roba clamorosa, non è che vada buttata via, non bisogna essere, però deve essere dimostrata, perché se no tutti possono dire tutto. In effetti è quello che succede, tutti dicono tutto. Conclusione. Sul Sporgerungen, medicina, l'ho fatto per darmi importanza con la editora, medicina e medici hanno inconfutabili grandissimi meriti, su questo non c'è dubbio, questo non è un processo che finisce con una condanna della classe medica. Gli inevitabili errori medici vanno messi in conto e giudicati equamente in un teorico processo bilanciato. La mala sanità invece, che non è errore medico, è inaccettabile, va prevenuta e sanzionata severamente anche dall'ordine dei medici. Se uno si è comportato male, ha violentato la paziente, eccetera, uno è un ordine, non me lo posso spendere per 4 anni, me lo radia. Non ci sono discorsi. Con la salute non si scherza, la ingenuità e la disinformazione sono spesso più gravi della malattia. I pazienti però devono convincersene e concorrere a un buon rapporto con il proprio medico. Nulla viene dato gratis. Per avere un buon rapporto col medico bisogna dargli qualche cosa, dare fiducia tu al medico e il medico a te. Non si può pretendere che il buon medico che arriva di notte, che si ispira a Albert Schweitzer, faccia quello senza che tu faccia niente. Anche il paziente è coinvolto nel processo della buona medicina e non tutti sono bravi pazienti. L'ultima è questa. Questa è la editora della, della casa editrice C'era una volta di Roma. Questa è una fotografia presa nel primo congresso che ha fatto contro le bufale in medicina nel 2017, che si ripeterà puntualmente nell'aprile del 2018, e che è una persona che si occupa di tante cose, ma che ha una particolare predilezione per la serie della sua casa editrice che si occupa di buona medicina. E siccome è qui con noi, io vi pregherei di farle un applauso. Mi ha, diciamo, rifatto fare pace un po' con la medicina e mi ha insegnato tante cose di vita, quindi è un maestro di vita anche. E ho voluto lui per questo congresso di medicina e pseudoscienza perché, a parte l'avete visto, lo conoscete, l'avete visto anche dai libri, spazia su tante materie. Sei sicuramente specializzato nella gastroenterologia, ma tu sei un mostro di medicina, quindi poi lo conoscete, insomma, non vi devo dire. E quando poi alla fine del congresso gli ho detto: vabbè, senti, io ho già l'idea del prossimo aprile 2018, ho detto: ti va di farlo? E lui fa: prontissimo, eccolo qua, è lui. Ricordo questo, va bene. È un video su YouTube che se qualcuno è interessato. Volevo dire, non ho spiegato sempre chi era l'autore dell'aforisma, ma nell'indice del libro è indicato chi è, cosa ha fatto, in che età è vissuto.